Sappiamo però se non lo so curare. E allora, tu puoi curare. E gli altri ce li hai. Ma certo, se la cava tutto le ali, avrei curato. Va bene, comunque buonasera. Che buonasera, Giovanni. Piccina, andiamo bene, andiamo. Fuori si sta bene, non ce n'è freddo. No, si sta bene fuori. Ma non ti è che si fa di male. Esatto, dentro casa il centro. Dai, è giusto aperto, forse per quello. Ecco, diciamo che si fa i piedi, casa, perché c'avevo freccia. Freschetto, io la braccia corta ancora. E infatti così. Sì, adesso la faccio chiuso tutto già. E si sta bene, là. Hasta prima c'era la rietta, là. E dentro casa c'era un ventano. Perché sono io ancora in maglietta, capito? Sì, va bene. C'era in maglietta, per quello c'era freschetto. Io faccio la maglietta e sopra faccio un coso, un bottino leggero. La teppa, non mi faccio la teppa io. Perché aspetta, e mi copro. Anche i libri mi stavo vedendo, certo. E magari fuori c'è caldo, perché infatti alle 4 sono uscito in macchina, ragazzi, macchina c'era caldo, sono andato a fare la visita, invece mi sono sbagliato la data. Ti dico che in macchina c'era caldo. Oh, in macchina si sta bene. Anche se ho preparato la finestrina si sta bene. Ma la mia era al sole, era al sole, come sei entrato c'era un bel caldo. Ma è bellissimo. Ma io la sera c'ero al fresco, quindi stavo bene. Sì, anche la mia, ma non era con la mia, capito? Mi stavo accompagnando, cioè stavo andando a fare la visita, invece che appena il 20 ce l'avevo il 23, allora siamo tornati indietro subito. Il 23 di questo mese? Io domani mattina dopo alle 11 devo essere dal medico, mi deve fare il foglio, e più mi devo portare anche gli analisi, così mi va di questo foglio. Io non pulisco ad andare lì, dove sono chiesto. L'avevo già fatta, perché me l'aveva chiesto il centro di abitico. Però mi hanno detto a mettere queste gocce e per un anno stavo mettendo queste gocce sempre, così che oggi mi sembrava che era oggi l'appuntamento perché era il 23 e allora siamo tornati indietro subito. Mi ha fatto bene, ma le gocce per gli occhi stai usando. Infatti, sono due tipi di collirio. Un tipo, me lo metto due volte al giorno, sia alle 8 di mattina e alle 8 di sera. Alle 10 invece me le metto in tutti e due occhi, capito? Invece quello di due volte me lo metto solo l'occhio sinistro. Forse per dilatare le pupille, te lo sto dando. Sembra che sta andando bene, adesso mi vedo un po'. Ora a vedere se vedo bene ancora, grazie a Dio, come posso lamentare. Adesso vedo un po'. Si vede che c'era qualche cosa andando in queste gocce, capito? Io dove sono per le pupille. Quando fai la visita poi torno a controllare se è aumentato o se è diminuito. E infatti era un controllo. Era un controllo questo qua, capito? E cioè era qua il 23, poi da ministro. infatti non sono passeggiato, va. Ah, ma così esce da un po' buco. Infatti, certo. Le gambe, non capiranno più, no. Certo, si stanno addormentando. Sì, perché dovreste fare ogni giorno una piccola passeggiata. No, di notte, ma almeno ogni giorno una piccola passeggiata, quando è bello. Sono attirato, prima di tutto, se la sta andati a fare la fabulazione mia moglie, sta in soffrezza, Alina. Poi siamo usciti, che era il nome meno un quarto, sono senza piante di segno. Mi sono fatto un po' di spese. E dopo sono sceso qua, e già l'ha fatto due o tre volte la scala, che gli ho camminato. Forse per quello che si è un po' dormite. Oh, al contrario, sono gambe di essere uomini. Ah, c'è caduca, sono macello. E il cartello mi sono accorto che quando ho parcheggiato la macchina, per andare proprio lì all'ambulatorio, che ci mostrano le gambe, capito? Io quando cammino con la circolazione del sangue mi si fa a correre un po', facendo un movimento per sempre più leggeri. Ma tu fai parecchio movimento tutti i giorni, per cui infatti è questo che certe volte non riesco, provo a lasciare la sola, capito? Perché solo non la posso lasciare, capito? Sto lì. Sì, è così, infatti. Si possono lasciare da soli. Sì, purtroppo. È così. Ah, adesso mi vedo un po'. Domani c'è da voi, amici, c'è di campagna, ma di sera, a fare qualche cosetto, poi ovviamente ce l'ho fatta. E fai bene. Manco così. Se non fa zero, non so per quello domani. Così ho visto. In una posso ha messo acqua e l'altro non ha messo. Adesso bisogna vedere dove va, dove fa quest'acqua. E quello è. Bisogna vedere dove fa. Se passa dritto o se fa di piacere il gutteggio agli selvaggi. Ah, ma è vero, non si piace che tocca. Piazza questa fase di Fazeva. E se che Fazeva non mi parlo, o saranno. Però ieri sono sceso, sono fatto un po' nuva, che l'acqua la stava guardando per quanto, perché se ho portato un po'. Anche ieri ho fatto un po' di movimento. Sì, è fatto bene. Fatto bene, se poi hai fatto un po', tanto giguaccia. Con leva giguaccia. E quindi meglio farla subito. E così. Poi io domani mattina alle 11 devo essere dalla mia dottoressa. E poi domani sera devo portare il cane dal veterinario a controllo. Sì, a tirare lo svago, io molte volte sono impegnata anche in tua casa, perché lì non può fare niente, perché devo aiutare a fare qualche cosa, non ti sembra? Oh, quello è giusto, lo faccio anch'io qua, così. Quando vedo che sono un po' là, mi aiuto anch'io a fare qualche cosa. Possiamo muovere un po' carino. Infatti, a Marco ci dormivo, per carità, in Maia, e abitavi ai casi, e ti giri ci avvia io. Sto travagliando in giro, certo. Ma invece andiamo in giro, dove piace te uscire? Perché ti sei abituato a stare in casa, ecco cosa è. Oh, ogni tanto bisogna uscire a farsi un giro. Sì, domani mattina la prima cosa che devo fare è andare alle poste. va a fare gli aerografi anche qua a casa. Andiamo già a fare il movimento un po' là. Qua non so fermo. E certe volte c'è anche magari a due o tre volte. O mi porto acqua, o mi porto del cibo, o mi porto altre cose. Per dire là, certe volte a giorno, anche due o tre volte scendo. E le scale sono prima, sono 40 scalire e cominciano a pesare. Ha peso nelle scaline. Ma no, io faccio, io rompo le scale, io ce li ho al primo piano, quindi la faccio in fretta. Sì, purtroppo io sono al secondo piano e ci sono 40 gradi. C'era un po' pesante e mi fermo. Io ogni giorno mi fermo e dopo rifatto. E questo qui, e prima andavo pure di andavo col vento. Mi faccio. Infatti, molte cose sono gran voto. Siccome ho due tipi di acqua, e allora certe volte salvo quella di 2 litri, quell'altra volta salvo 4 litri, di quell'ora in 3 mesi. E poi c'è altra cosa, sai, io sono tutto il magazzino e poco a poco me la porto su, capito? Infatti, piano piano, una cosa alla volta. Se ce la fa portando sede, perché sì, se no non vorrei vedere nessuno. Però quello piano piano, dai, non mi la figlio fretta. Tanto fretta non ce n'è, per cui io non fermo più 10 minuti, fermo più 4 ore. Ho registrato. Sì, piano piano io si devo avanti. Avanti, signor Marino. Buonasera, ci vuole un controllo, un saluto, perché sto stimando più roba. Ok, ciao Giovanni, ciao a tutti, sono con le scrittori. Giovanni, dammi un controllo di segnale, tanto che ti dia che ho ripiazzato la stella e l'abbiamo sistemata, voglio vedere come sta andando. Cambio. Ok, sì, 8-8-8 e 8-8-8 di segnale. La radio è super 5, non ti posso dire altro, Marino. Buonasera, e ben sentito. Ok, avanti il turno. Ok, benissimo, ringrazio. Continuate, riprendi Giovanni, sto facendo il sistema con la roba, e poi ci sentiamo dopo, vai, avanti Giovanni. D'accordo, noi attendi pure, stacciamo qua, per un po', tanto buonasera, ben sentito. E allora, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Erano 2 giorni che non c'era perché ero fuori Sassari, ero. E io ogni tanto gli ho fatto a te, va. Quando si può, la cacchia bisogna fare, tutto lì, qua dietro. Io ti credo, una piccola chiacchierata, non si può fare. Ero fuori Sassari, ero. Ero un giorno simile. Ieri era la cosa, Tortero. Oggi finalmente a casa, riposarmi un po' perché ero molto stanco. E vabbè, ma rientri, la sera rientri a casa? Rientro la notte, alle 5 del mattino, ovviamente. Poi non è stato in cielo, rientri a casa, non fai la notte fuori. È capitato anche di dormire fuori. Può capitare anche queste cose, per cui il lavoro è così. Con lo stesso giorno bisogna andare e lavorare. Con dietro. Non faccio. prima lavoro, dopo quando si è liberi, si fa tempo una chiacchierata, se no pazienza. E via via, è così, è. Però ma l'abbiamo sentito anche a Marino stasera, eh. Tanto lo sentivamo troppo. No, io l'ho sentito, ma metto nel manco, non ho sentito, mi pare sabato, ho sentito. No, è da Parigi l'ho sentito io. E beh, magari non sempre sono qua, non sempre l'ho acceso, perché gente non l'ho acceso, forse sono da fare. Io non so niente da fare dall'accento. Ma sì, loro prima e dopo erano tutti a cerezzo. Infatti così. Se siamo in così, oh vabbè. Papà, tanto. Invece che fate a catena che dico vanno riposati, se sei stanco. Siamo più distanti. Perché tu sei appena più in alto di me e arriva più forte. Ma non so perché. Una cosa è un aperto lì. Sì, io ho un palazzo davanti a lui, è per quello anche. Mi sono chiuso. L'importante è che si intende alla radio, no? Da voi, l'importante è che ok, ciao. Guardate Giammari. Ovviamente cerchiamo. Riposati che meglio, ciao. Infatti i segnali sono diversi, capito? Non è che sono tutti precisi. A lui magari va a 9, a me mi arrivano a 7-8 come a te. E evidentemente intende anche dare gli apparecchi pure, capito? Non è che a te. Siamo vicini e per cui si arriva a contatto a te, infatti sta arrivando anche a me, a lui arriva, io anche evidentemente è più agevole di più con l'apparecchio suo. Sì, fate così purtroppo. Allora, l'apparecchio suo, anche la zona, bisogna arrivare, dopo che si è tutto libero, la parte sua, e arriva più forte. Io faccio un palazzo di Gozu, di calcio e struzzo, e ce l'ho davanti nella direzione sua, di Marino. Vedi l'antenna che c'è tutto, no? È più migliore della sua, lei. Cazzo. C'è un guadagno, parecchio guadagno la tua antenna. Ma dipende dall'apparecchio, non dall'antenna, Dipende, da un apparecchio all'altro c'è la differenza. A uno leva più forte, a uno leva più basso, ma è causato dall'apparecchio, perché l'apparecchio non sono tutti precisi. diciamo l'apparecchiato varia, come può variare la ricezione? Capito? Sì, sì, no, per quello sì, no, c'è problema. Sì, vabbè, e poi sempre chi arriva, che siamo a radio. Infatti, quello di sognare se ne fa benedire, il portarci se la radio buona, quando la radio è buona puoi sognare, chi se ne frega di sognare, la radio interessa. Ma sentirlo già lo sento bene, a Puglia, già lo sentivo bene. E anch'io, certo. È da fare che non si può bene bene come adesso, immaginate. Ti ricordi per un periodo che la forse l'apparecchio che sapeva che non funzionava bene, adesso la sta uscendo bene, bella chiara e pulita, però il segnale, ripeto, se ne fa benedire la radio, è quello che conta la radio. Ma che conta la radio, che si sente bene? Insegnare, che se ne fa insegnare? Se tu non ci insegnare, basta, se no la radio è poco. Questo è caduto. E purtroppo è così. Gli apparecchi non sono tutti precisi, capito? Infatti, gli apparecchi non sono tutti precisi, no? Se un po' esce di volte, un po' esce di volte, un po' esce di... Dimmi che c'è la radio buona, sì. Ah, sì. Abbiamo la radio, chi dà ragione. Almeno riesce a comprendere. Lui è così. Così è. Allora. Lui ha... Ah, domani devo andare a chi dà. Cazzo, prezzo di uscire, no? No. No, ci devo essere dal medico, però domani mattina come prima cosa che faccio è che devo andare alle poste, poi negozio e poi in farmacia, quindi uno e tre, e poi alle 10:30 dicevo da Rodi, mi dico un posteggio e ando da Roma Polizia. E sempre sotto gli alle poste non ci sia la fila. Già ci saranno le giornate buone, dai. Le giornate se me a meno gente, perché a giorni è piena, a giorni che fa, non c'è quasi mai nessuno. Infatti, ultimamente stavo trovando un po' di gente. Quando le 2 settimane fa ho trovato un po' di gente, ma riesco a prendere. Speriamo che domani mattina trovi poca gente, quasi nessuno, è meglio. E poi c'era, io sono andato a me, dunque, sabato, venerdì, c'erano 2 sportelli solo, c'erano. Gli altri erano tutti chiusi, che erano in ferie ancora, capito? Chissà che c'erano rientrati gli altri. Ma che non ti ho conosciuto, erano in 2 solo. Erano in ferie gli altri. Sì, veniva fuori, riposo, buono. E anche. Ma tu non so anche a fare, lo dai. Eventualmente ci sentiamo domani, ci sentiamo, dai, chiudo. Forse... le mie figlie, dai, ci sentiamo a tutti. Grazie a chiacchierata, buon proseguimento, sono in casa. Sì, Giammaria, ci risentiamo alla prossima, ok, ciao Giammaria.